the baba di kanam kam parme. Tapo di baba di baba di kanam. Tapo di baba di baba di kanam. Tapo di baba di baba di kanam. Tapo di baba di baba di kanam kam parme. Tapo di baba di baba di kanam. Tapo di baba di baba di kanam. Baba di baba di kanda mochi.